che duco sulla vimo, la vimo, per l'orinala come facimo, per spugna cardinala, faccio e un pedorinala, pirulì, pirulì, pirulà, mannaggia l'anima e mamma tam. E lo saccuna la vimo, per i lenzoni come facimo. Del punaruri signolo, pazzo e peru lenzolo, piruli piruli pirula, mannaggia l'animi mamma ta. Eri lenzole la vimo, per la coperta come facimo. Rispunnerà lucerta, pazzo e pera coperta, piruli piruli pirula, mannaggia l'animi mamma ta. E la coperta la vimo, e per i cuscini come facimo? Rispunna da catina, azzo e per i cuscini, piruli, piruli, pirulà, mannaggia l'animi mamma ta.